La signorina Wilder passò tra i banchi con la campanella in mano. Aveva i capelli scuri e gli occhi grigi. Sembrava una persona amabile. Indossava un elegante abito grigio, simile nella foggia a quello che avevano fatto per Mary, con il davanti stretto e diritto, una balza pieghettata in fondo che arrivava giusto a sfiorare il pavimento e la soprargonna raccolta dietro con un drappeggio sopra il corto strascico. «Siete voi che avete scelto quei posti, ragazze?» chiese sorridendo. Sì, signora, rispose Minnie Johnson arrossendo, ma Mary Power ricambiò il sorriso e disse: Mi chiamo Mary Power, questa è Minnie Johnson e lei è Laura Ingalls. Ci farebbe piacere stare in questi banchi se è possibile. Siamo le ragazze più grandi della scuola. D'accordo, allora, sedetevi pure lì, disse la signorina Wilder amabilmente. Poi si affacciò sulla soglia a suonare la campanella. Quando tutti furono entrati ed ebbero preso posto, l'aula era quasi piena. Dalla parte delle ragazze c'era un solo banco libero. Dalla parte dei maschi erano rimasti vuoti tutti gli ultimi posti perché i ragazzi più grandi non sarebbero venuti a scuola che all'inizio dell'inverno. Ora stavano ancora lavorando in campagna. Laura vide che Carrie era seduta accanto a Mammy Bursley in uno dei primi banchi. Sembrava contenta. Poi si accorse che c'era una ragazza ancora in piedi che si guardava attorno con aria incerta. Poteva avere grosso modo la sua età e sembrava anche lei molto timida. Era piccola di statura e magrolina. I miti occhi bruni sembravano grandi nel visetto tondo. Aveva i capelli neri e ondulati con una frangia di riccioli sulla fronte. Tutta rossa per l'imbarazzo guardava Laura con un timido sorriso. Se non prendeva il posto libero accanto a Laura, avrebbe dovuto stare da sola nel banco vuoto. Laura sorrise e le fece cenno di mettersi accanto a lei. Gli occhi bruni risero di gioia. La ragazza posò i libri sul banco e sedette. Quando tutti furono ai loro posti e in silenzio, la signorina Wilder prese il registro e passò tra i banchi segnando il nome di ciascuno dei presenti. La compagna di Laura disse che il suo nome era Ida Wright, ma che tutti la chiamavano Ida Brown perché era stata adottata dal reverendo Brown e dalla moglie. Il reverendo Brown era il nuovo ministro congregazionalista, era appena arrivato in paese. Laura sapeva che a papà e mamma non era molto simpatico, Ida però le piaceva. La signorina Wilder aveva messo via il registro e stava per cominciare la lezione quando si aprì di nuovo la porta. Si voltarono tutti a guardare chi arrivava in ritardo il primo giorno di scuola. Laura non credeva ai suoi occhi. Era Nellie Oleson, una ragazza di Plum Creek in Minnesota. Era diventata più alta di Laura e molto più magra e flessuosa. Laura invece era ancora rotondetta e robusta come un cavallino normanno. Anche se erano passati più di 2 anni da quando si erano viste per l'ultima volta, Laura la riconobbe subito. Teneva ancora il nasino all'insù con aria sdegnosa, aveva ancora gli stessi occhi alteri, la stessa bocca smorfiosa e sprezzante. Nellie era quella che a Plum Creek rideva di lei e di Mary perché erano figlie di contadini e venivano dalla campagna, mentre lei era figlia di un negoziante e abitava in paese. Quella che si era permessa di rispondere maleducatamente a mamma e di prendere a calci Jack, il loro buon vecchio bulldog, che ora era morto. Era arrivata in ritardo, ma si guardava intorno come se la scuola non fosse degna di lei. Portava un abito color castagna chiaro, alla polonaise, con una ricca bordura increspata in fondo alla gonna, attorno al collo e lungo l'orlo delle ampie maniche. Sotto il mentole ricadeva una cascata di pizzo bianco. I lisci capelli neri erano raccolti in un alto chignon a conchiglia. Teneva la testa alta e si guardava attorno sprezzante. Vorrei un posto nell'ultima fila, per cortesia, disse alla signorina Wilder e fece un cenno col mento a Laura come a dire: Levati di lì che mi ci metto io. Laura non si mosse, restò seduta dove era, fissando Nellie dritto negli occhi. Tutti gli altri guardavano la maestra per vedere che cosa avrebbe fatto. La signorina Wilder si schiarì la voce. Laura continuava a fissare Nellie senza dire nulla finché alla fine lei fu costretta ad abbassare gli occhi. Allora guardò Minnie Johnson e disse, accennando col mento al suo posto: Per me va bene lì. Ti va di spostarti, Minnie? Chiese la signorina Wilder, anche se poco prima le aveva detto che poteva tenere il posto che si era scelta. Sì, signora, rispose Minnie di malavoglia. E lentamente raccolse le sue cose e si spostò nel banco libero più avanti. Mary Power non si mosse e Nelly restò lì in piedi nel corridoio tra le due file di banchi ad aspettare. Non aveva nessuna intenzione di fare il giro per andare a occupare il posto lasciato libero da Minnie. Su, Mary, disse la signorina Wilder, se ti sposti e fai spazio alla nuova compagna, possiamo cominciare. Mary si alzò in piedi. Vado avanti con Minnie, disse seccamente. Preferisco così. Nelly prese posto con un sorriso soddisfatto. Aveva il banco migliore e per giunta tutto per sé. Laura ebbe un moto di maligna soddisfazione quando la sentì dire alla signorina Wilder che suo padre abitava in una concessione a nord del paese. Dunque anche lei ora era una ragazza di campagna. Poi le venne in mente che loro invece si sarebbero trasferiti in paese per l'inverno. La signorina Wilder intanto aveva picchiato il regalo sulla cattedra dicendo «Attenzione, ragazzi, per cortesia!» Poi fece un discorsetto, sorridendo tutto il tempo. «Eccoci pronti a cominciare il trimestre. Faremo tutti del nostro meglio perché sia il miglior trimestre possibile, non è vero? Sapete tutti che siete qui per imparare quanto più potete e io sono qui per aiutarvi. Non dovete considerarmi un insegnante, ma un'amica». Sono certa che saremo tutti buoni amici qui a scuola. I più piccoli stavano già cominciando a dare segni di insofferenza e anche Laura aveva voglia di muoversi. Non ne poteva più di star lì a guardare la signorina Wilder che sorrideva e continuava a parlare. Non la finiva più. Nessuno di noi si comporterà mai in modo scortese o egoista, vero? E siccome, ne sono sicura, nessuno sarà mai indisciplinato, nella nostra bella scuola non ci sarà bisogno di punizioni. Saremo tutte amiche e ci vorremo bene e ci aiuteremo a vicenda. Poi finalmente disse: prendete i libri. Quella mattina non ci furono lezioni vere e proprie perché la maestra doveva dividere le classi e decidere dove mettere ciascuna di loro. Laura e Aida, Mary Power e Minnie e Nellie Olleson erano le uniche ragazze grandi. Erano nell'ultima classe che per il momento, finché non arrivavano i ragazzi, risultava composta solo da loro cinque. Durante l'intervallo si misero a chiacchierare tra loro per fare conoscenza. Aida era allegra e cordiale, come pareva all'aspetto. Sono stata adottata, disse. Mamma Brown mi ha presa all'orfanotrofio, ma se mi ha voluta era perché le piacevo, no? Naturale, disse Laura. Come poteva essere altrimenti? Era facile immaginare che bimbetta graziosa doveva essere stata Aida da piccola, con quei riccioli neri e gli occhioni ridenti. Ma Nelly voleva essere al centro dell'attenzione. Non so se ci piacerà stare qua giù, andava dicendo. Noi veniamo dall'est, non siamo abituati a posti così selvaggi e a gente così rozza. Tu vieni dal Minnesota occidentale, dallo stesso posto da cui siamo venuti noi, disse Laura. Ah, quel posto, disse Nelly allontanando il Minnesota con un gesto. Ci siamo stati pochissimo. Veniamo dall'est, dallo stato di New York. Tutti quanti veniamo dall'est qui, disse Mary Power seccamente. Venite, andiamo fuori. Oh no, esclamò Nelly, non vorrai scherzare. Questo vento ti scurisce la pelle. Avevano tutte quante la pelle abbronzata dal sole, tranne Nelly. Può darsi che mi tocchi vivere qui, in questo postaccio, per qualche tempo, ma non ho nessuna intenzione di farmi rovinare la carnagione. All'est una signora ha sempre la pelle candida e le mani lisce. Le mani di Nelly erano bianche e affusolate. Non ci fu tempo per uscire, perché l'intervallo era finito. La signorina Wilder andò sulla porta a suonare la campanella. Quella sera a casa, Carrie non la smetteva più di raccontare della scuola. Alla fine papà disse che chiacchierava come una gazza. Lascia dire qualcosa anche a Laura. Che cos'hai, Laura? Perché sei così silenziosa? Laura raccontò di Nelly Olleson, di quello che aveva detto e di quello che aveva fatto, e alla fine disse: la signorina Wilder non doveva lasciarle prendere il posto di Minnie e di Mary. Neanche tu dovresti permetterti di criticare un insegnante, Laura, disse mamma con dolcezza. Laura si fece di porpora. Sapeva che avere la possibilità di andare a scuola era un grande vantaggio nella vita. La signorina Wilder era lì per aiutarla a imparare. E lei doveva esserle riconoscente invece di criticarla. Doveva studiare il più possibile e comportarsi in modo perfetto. Dentro di sé però continuò a pensare, comunque non doveva fare così, non è stata una cosa giusta. Dunque gli Olleson vengono dallo stato di New York. Papà era divertito. Non c'è molto da vantarsene. A Laura venne in mente che anche papà era vissuto nello stato di New York da ragazzo. Non so cosa sia successo, ma Oleson in Minnesota ha perso tutto quello che aveva, continuò papà. Non ha più nulla, a parte la concessione qui, e mi dicono che i suoi dall'est lo stanno. Eh beh, lo stanno aiutando, se no non ce la farebbe ad arrivare al primo raccolto. Forse Nelly si dà tante arie solo per dimostrare di essere qualcuno. Non me ne preoccuperei, Laura. Ma è vestita così bene, disse Laura, e non lavora mai, ha la pelle bianca e le mani lisce. Beh, anche tu potresti tenere la cuffia in testa, Laura, disse mamma. Quanto agli abiti, facile che vengano da una donazione. E magari Nelly è come la fanciulla della canzone, quella che aveva il colletto di pizzo e le mancavano le scarpe. Laura pensò che comunque Nelly Oleson non le faceva nessuna pena, e meglio sarebbe stato che fosse rimasta a Plum Creek. Papà si alzò da tavola e spostò la sedia accanto alla porta aperta. Vai a prendere il violino, Laura. Voglio provare una canzone che ho sentito l'altro giorno. Quel tizio fischiettava il ritornello, ma io credo che col violino venga meglio. Laura e Carrie lavarono i piatti, cercando di non fare rumore per non perdere neppure una nota. Papà cantava con la voce bassa, piena di nostalgia, accompagnato dal suono limpido e dolce del violino. Vieni a cercarmi, vieni mia cara, quando sentirai la sera cantare il caprimulgo. Il violino cantava, un suono flautato e pulsante come il richiamo del caprimulgo che abita le pianure d'America, e pareva che di lontano un altro rispondesse. Nel suono del violino i due si chiamavano e si rispondevano, uno lontano e dolce, l'altro forte e vicino, e tutto il cielo ne era pieno. Una cascata di note nell'imbrunire. Tutti i pensieri aggromati di Laura si sciolsero nella melodia e divennero lievi e armoniosi anch'essi, come quel canto di uccello innamorato. Voglio essere buona, pensava tra sé. Non importa se Nelly Oleson è odiosa, io non voglio essere come lei. Trasloco in paese. Per tutto l'autunno Laura e Carrie ebbero un gran da fare. Il tempo si manteneva bello. Al mattino davano una mano ad accudire le bestie, facevano colazione, preparavano il secchiello del pranzo, poi uscivano per andare a scuola. Un miglio buono di cammino da fare di buon passo. Al ritorno correvano a casa, perché c'era ancora tanto lavoro da sbrigare prima che calasse il buio. Sabato lavoravano tutto il giorno per preparare il trasloco in paese. Aiutarono papà a raccogliere le patate, a cimare le rape e ad ammassarle nel carro. Poi raccolsero e cimarono anche le carote, le barbabietole e le cipolle, e infine raccolsero i pomodori e gli alchechengi. Gli alchechengi crescevano su bassi cespugli frondosi, se ne stavano sotto le larghe foglie come tante lanternine a sei lati, di un pallido grigio e più sottili della carta. Dentro ogni lanternina c'era un frutto dorato, tondo e succoso, come una ciliegia. I pomodori messicani, invece, erano ricoperti da una buccia liscia color marrone opaco. Quando l'aprivi trovavi dentro una specie di piccolo pomodoro rotondo, di un bel rosso vivo, più grande dell'alchekenji, ma più piccolo di un vero pomodoro. Per tutto il giorno, mentre loro erano a scuola, mamma faceva conserve di pomodori, alchekenji e pomodori messicani. Dai pomodori verdi, che non avrebbero fatto in tempo a maturare prima del gelo, ricavava una salsa piccante. In casa aleggiava costantemente il profumo dolce delle conserve e l'odore speziato e pungente di quella salsa. Quest'anno, andando in paese, ci porteremo dietro tutte le nostre provviste, disse papà raggiante. Dobbiamo sbrigarci, non voglio essere di nuovo sorpreso qua giù da una bufera ottobrina come l'anno scorso. Quest'inverno non farà freddo come quello passato, disse Laura. Si sente che l'aria è diversa. È vero, disse papà. È probabile che quest'inverno non sia altrettanto freddo e non arrivi tanto presto, ma quando arriva voglio essere pronto. Stava portando in paese tutta la paglia d'avena e il mangime fatto con le piante secche del Gran Turco e li andava ammassando accanto ai covoni di fieno. Patate, rape, barbabietole e carote furono riposte nella cantina che aveva scavato sotto il magazzino. Poi, un lunedì sera e fino a notte fonda, Laura e Carrie aiutarono mamma a imballare abiti, stoviglie e libri. Fu allora che Laura scoprì un segreto. Si era inginocchiata sul pavimento per tirar fuori dal cassetto più basso del cassettone la biancheria di flanella di mamma quando sentì qualcosa di liscio e duro sotto le dita. Era un libro nuovo, bellissimo, rilegato in tela verde con un fregio dorato sulla copertina. Di taglio il bordo delle pagine sembrava oro puro. Sulla copertina, due archi di eleganti lettere d'oro formavano la scritta Alfred Tennyson, poesie. Lo stupore della scoperta fu tale che per poco il libro non le cadde a terra. Nel movimento brusco che fece per trattenerlo, le si aprì in mano. Alla luce del lume, le pagine apparvero chiare, intatte, piene di versi stampati in un bel carattere nitido ed elegante. In ogni pagina una sottile riga rossa racchiudeva il testo scritto come fosse una cosa preziosa, separandolo dai margini bianchi. Verso il fondo della pagina di sinistra era scritto a caratteri più grandi: I lotofagi. Coraggio, era la prima parola della poesia. E Laura cominciò a leggere. Coraggio, disse indicando la terra. L'onda ci porta alla costa laggiù. Approdarono a terra la sera in un luogo ove s'era perenne. Languida spirava l'aria d'attorno, come fiato di stanchevole sogno. Alta stava la luna sulla valle e come. Poi Laura si fermò spaventata. Si era accorta di cosa stava facendo. Se mamma aveva nascosto il libro in fondo a quel cassetto, lei non aveva il diritto di leggerlo. Chiuse subito gli occhi e poi chiuse anche il libro, ma farlo le costò un grandissimo sforzo. Non leggere neppure una parola in più, non arrivare neppure alla fine del verso. Ma non si deve indulgere alla tentazione. Ripose il libro dove lo aveva trovato, tra la biancheria di flanella rossa. Rimise la biancheria al suo posto, chiuse il cassetto e aprì quello di sopra. Poi restò lì, senza saper che fare. Doveva confessare a mamma di aver trovato il libro, certo, ma subito le venne in mente che era stato nascosto perché era una sorpresa. Mamma e papà dovevano averlo comperato quando erano andati ad accompagnare Mary a Vinton. Doveva essere un regalo di Natale. Il cuore cominciò a batterle forte. Era lei ormai la più grande di casa. Sì, doveva essere un regalo per lei. Dire di averlo visto significava rovinare a mamma e papà il piacere di fargli una sorpresa. Come ci sarebbero rimasti male? Le parve di essere stata lì un'eternità, ma fu solo un istante. Un attimo dopo, mamma entrò di corsa dicendo: Finisco io lì, Laura. L'ora di andare a dormire è passata da un pezzo. Sì, ma, disse Laura. Mamma non voleva che lei trovasse il libro. E Laura, che in vita sua non le aveva mai taciuto un segreto per quella volta, decise di tacere. L'indomani, uscite da scuola, Laura e Carrie non tornarono alla fattoria, ma si fermarono al magazzino di papà, all'angolo tra Main e Second Street. Quel giorno papà e mamma avevano traslocato. La stufa e l'armadio erano già al loro posto in cucina. Di sopra, nelle due camerette, ricavate sotto il tetto spiovente, erano già montati i letti, coi loro pagliericci gonfi di fieno sotto i cuscini e le coperte piegate. Mamma aveva lasciato solo i letti da fare e Laura sapeva che il bel libro di poesie di Tennyson doveva essere tornato al suo posto nel cassetto, ma naturalmente non andò a controllare. Ogni volta che vedeva il cassettone, però, non poteva fare a meno di pensare alle parole: Alta stava la luna sulla valle e come. Come cosa? Doveva aspettare Natale per sapere come continuava la frase. Coraggio, disse indicando la terra. L'onda ci porta alla costa laggiù. Approdarono a terra la sera in un luogo ove s'era perenne. Natale sembrava così lontano. Di sotto, mamma aveva già trasformato il grande spazio vuoto del magazzino in una casa gradevole e accogliente. La stufa era lustra. Le tende alle finestre erano lavate di fresco e sul pavimento ben spazzato erano disposti i tappetini di ritagli di stoffa intrecciati che servivano a proteggere l'interno dagli spifferi. Nell'angolo più soleggiato, vicino alla finestra, c'erano le due sedie a dondolo, ma quella di Mary era vuota. A Laura capitava spesso di avere tanta nostalgia di Mary da sentirsi quasi male. Ma non era giusto parlarne. Mary era all'università, cosa che aveva desiderato tanto. Un insegnante aveva scritto a papà che stava bene e faceva grandi progressi. Presto sarebbe stata in grado di scriversi le lettere da sé. Anche quel giorno, Nessuno parlò del vuoto che sentivano. Prepararono la cena e apparecchiarono la tavola allegramente e serenamente come sempre, e mamma non si accorse del sospiro con cui disse: "Bene, eccoci sistemate per l'inverno." "Sì," disse papà, "e questa volta siamo pronti ad affrontarlo." Non erano solo loro, tutti in paese si stavano preparando all'inverno. La segheria aveva fatto grandi scorte di carbone. I bottegai avevano riempito i magazzini, il mulino aveva farina in abbondanza e i silos erano pieni di frumento. Avremo da mangiare e il carbone che ci serve per tutto l'inverno, anche se i treni sospenderanno il servizio, disse papà. Era bello sapersi così ben attrezzati e al sicuro, con riserve di combustibile e di cibo che sarebbero durate fino a primavera. Quell'anno non avrebbero sofferto la fame e il freddo. A Laura mancava la lunga passeggiata per andare e tornare da scuola. Era una cosa che le piaceva immensamente. In compenso, la mattina non doveva più andare ad accudire le bestie nella stalla. Lo faceva papà, ora che non aveva più da lavorare nei campi, e Carrie si stancava meno. In casa erano tutti preoccupati per Carrie. Non era mai stata una bambina particolarmente robusta e ora sembrava che non si fosse veramente ripresa dal durissimo inverno che avevano passato. Le lasciavano fare solo i lavori più leggeri e mamma cercava di farle venire appetito con quel che di meglio trovava da mettere in tavola, ma Carrie era sempre magra e pallida, piccola e minuta per la sua età. Gli occhi nel visetto appuntito sembravano fin troppo grandi. Spesso al mattino, anche se dovevano fare solo un miglio di strada e Laura le portava i libri, Carrie arrivava a scuola già stanca. Qualche volta aveva tanto mal di testa da non riuscire a recitare le lezioni. Abitare in paese per lei era meglio, molto meglio. Giorni di scuola. A Laura piaceva andare a scuola. Ora conosceva tutti i compagni e le compagne e con Aida, Mary Power e Minnie erano diventate amiche. Passavano sempre l'intervallo insieme. In quelle belle giornate d'autunno, con l'aria frizzante e il sole ancora caldo, i maschi facevano ogni sorta di gioco con la palla. A volte la gettavano anche soltanto contro il muro della scuola e si precipitavano tutti insieme, spintonandosi e ammassandosi gli uni sugli altri per prenderla a rimbalzo. Qualche volta cercavano di convincere Laura a giocare con loro. "Dai, Laura, vieni anche tu!" Era una cosa da maschiacci correre e saltare alla sua età, ma lei si divertiva e qualche volta giocava con loro. I maschi erano tutti piccoli, erano simpatici e non si lamentava mai quando capitava che il gioco diventasse un po' violento. Un giorno sentì Charlie dire ai compagni: "Lei non è una pappamolla, anche se è una femmina." Quel commento le fece piacere. Se sei simpatica ai ragazzini, sei simpatica a tutti. Le altre ragazze sapevano che lei non era un maschiaccio, anche se ogni tanto era tutta rossa e accaldata per il tanto correre e le si allentava la treccia. A volte anche Aida giocava con loro. Minnie e Mary Power stavano a guardare e applaudivano. Solo Nellie Olleson storceva sempre il naso. Non volle neppure andare a fare due passi con loro il giorno che per gentilezza la invitarono. Disse che non le andava. "Avrà paura di rovinarsi la sua bella pelle bianca dello stato di New York," commentò Aida ridendo. "Secondo me vuol stare dentro per fare amicizia con la signorina Wilder," disse Mary Power. "Sta sempre a chiacchierare con lei." "Buon pro le faccia," disse Minnie. "Si sta molto meglio senza di lei." "Anche la signorina Wilder abitava nello stato di New York. Parleranno di quello," disse Laura. Mary Power le lanciò un'occhiata divertita e le strinse il braccio. Nessuno aveva mai detto che Nellie Olleson era la cocca della maestra, ma lo pensavano tutte. A Laura non importava niente. Lei era la migliore della classe e non aveva nessun bisogno di diventare la cocca della maestra. Tutte le sere dopo cena studiava fino all'ora di andare a dormire. Era quello il momento in cui aveva più nostalgia di Mary. Era abituata a studiare e fare i compiti con lei, ma laggiù in Iowa anche Mary studiava per conto suo e se doveva restare all'università e sfruttare tutte le magnifiche occasioni che aveva, Laura doveva assolutamente prendere l'abilitazione. Tutto questo le passò in un lampo nella testa mentre se ne andava a braccetto con Aida e Mary Power. "Sapete cosa penso io?" disse Minnie. "No, cosa?" chiesero loro. "Scommetto che è a quello che mira Nellie," disse Minnie accennando a una pariglia che passava sulla carareccia. Erano i due Morgan. Le esili zampe correvano svelte, gli zoccoli sollevavano piccoli sbuffi di polvere, i lucidi garretti splendevano al sole, code e criniere sventolavano nere e lucenti nel vento. Con le orecchie aguzze, puntate avanti e gli occhi immobili e scintillanti, i due splendidi vai sembravano prendere tutto in allegria. Piccole nappe rosse pendevano dondolando dalle briglie. La luce del sole danzava sulla piega elegante del collo, lungo il serico dorso e giù per la curva potente delle natiche. Dietro di loro scivolava un calesse nuovo di zecca. Le parti in legno luccicavano, i raggi dell'impeccabile mantice teso sopra il sedile scintillavano. Le ruote erano alte e rosse. Laura non aveva mai visto un veicolo così bello. Laura, perché non hai risposto al saluto? Chiese Aida quando la pariglia fu passata oltre. Non hai visto che si è levato il cappello quando ci è passato davanti? Disse Mary Power. Ma Laura aveva guardato solo i due magnifici bai e il loro calesse fiammante. Oh, mi spiace! Non volevo essere scortese, disse. Sono come una poesia quei cavalli, vero? Minnie, non vorrai dire che lei ha messo gli occhi su di lui? Chiese Mary Power. Ma è un uomo adulto, un colono, con terra e tutto. L'ho vista guardare quei cavalli, disse Minnie, e scommetto che si è messa in testa di farsi portare a fare un giro. Sapete che faccia fa quando vuole arrivare da qualche parte? E ora che lui ha quel calesse. Il 4 luglio non aveva nessun calesse, disse Laura. Gli è arrivato ora dall'est, disse Minnie. L'ha ordinato dopo aver venduto il frumento. Ha avuto un raccolto strepitoso. Minnie sapeva molte cose del genere, perché gliele raccontava suo fratello Arthur. Forse hai ragione, disse Mary Power lentamente. Ne sarebbe capacissima. Laura si sentì un po' in colpa. Lei non avrebbe mai cercato di ingraziarsi la maestra solo per fare un giro con i cavalli di suo fratello, però aveva pensato spesso che se la signorina Wilder l'avesse presa a ben volere, magari un giorno l'avrebbe invitata a fare una corsa. La signorina Wilder aveva preso una concessione su quella strada, un quarto di miglio più giù della scuola. Viveva là, in una baracchetta. Spesso Almanzo la portava a scuola al mattino, oppure si fermava a prenderla a fine giornata. E ogni volta, vedendo quei cavalli, Laura sperava che la maestra un giorno la invitasse a salire. Che fosse anche lei orribile come Nellie Olson. Ora che aveva visto quel calesse, Laura più che mai desiderava farci un giro. Come impedirsi di desiderarlo, con due cavalli così belli ed eleganti e un calesse così veloce. È quasi ora di rientrare, disse Aida. E tutte e quattro tornarono indietro. Non dovevano arrivare in ritardo. Nell'ingresso bevvero un sorso dal mestolo appeso al secchio dell'acqua. Poi entrarono in classe, abbronzate, polverose, piene di sole e di vento nei capelli. Nelly era seduta lì, ordinata e dignitosa, con la pelle bianca e neppure un capello fuori posto. Le squadrò da capo a piedi, con un sorrisetto sprezzante. Laura ricambiò lo sguardo, fissandola dritta negli occhi, e Nelly rispose con un gesto stizzito del mento e delle spalle. «Non crederti chissà chi, Laura Ingalls», disse. «La signorina Wilder dice che tuo padre non ha voce in capitolo sulla scuola, anche se è nel consiglio scolastico». Fece Laura esterrefatta. Avrà voce in capitolo come chiunque altro e probabilmente di più, intervenne Aida con decisione, dato che Laura e Carrie sono qui tutte e due, mentre nessuno degli altri membri del consiglio ha figli in questa scuola. Giusto, Laura? Giustissimo, esclamò Laura. Era furibonda. Come si permetteva Nelly di dire qualcosa contro papà? Dalla porta d'ingresso venne il suono della campanella che richiamava tutti in classe. A Laura parve che le rintronasse nella testa. Peccato che i tuoi siano contadini, Nelly. Se abitaste in paese, magari anche tuo padre potrebbe entrare nel consiglio scolastico e aver voce in capitolo. Nelly fu lì lì per prenderla a schiaffi. Laura vide la mano alzarsi ed ebbe appena il tempo di dirsi che non doveva assolutamente lasciarsi trascinare a picchiarla, sperando di riuscirci. Ma poi Nelly abbassò la mano e si infilò al suo posto. Era entrata la signorina Wilder. Dietro la maestra stavano entrando con risate e spintoni tutti gli altri ragazzini. Anche Laura andò a sedersi al suo posto. Era così furibonda da avere quasi le lacrime agli occhi. Sotto il banco, Aida le dette una rapida stretta al braccio che voleva dire: Brava, l'hai messa al posto!